rotto l'abisso. Ah sì, Renato rivedrà l'Inghilterra e la sua sposa lo seguirà. Senza un addio l'immenso oceano se va. Se fosse l'ultima.